Lo so, ma sai di salame? Chi? Tu. In che senso so di salame? Sei salame? Eh? Quello che apri il frigo e dici, oh, c'è salame. Io so così? Sì, soprattutto la prima fetta davanti, quella un po' più scura. Che bisogna buttare via. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago e anche un benvenuto, un bentornati, un bel trovati. Cosa c'è? Lo stavo, qui c'è scritto fare dei convenevoli finché si può attaccare il blocco sulle pubblicità della marca. Fare dei convenevoli vuol dire inventarsi, mica cosa fare i dati. Allora, cosa ti inventi? Non so, si può dire che fra due giorni arriva la Befana o arrivano i Re Magi. Allora, cari bambini, sei sulla notizia. Certo, i bambini stanno aspettando la calza. Cosa c'è nella calza? Ma che calza? Stanno aspettando. I bambini si sono già spaccati dei regali di Natale, hanno già rotti tutti, quindi no, ma la Befana porta solo dei dolci, non porta dei giocattoli. Porta delle caramelle, oppure del carbone dolce, delle nocciole, dei croccanti, dei torroni, e poi il dentista. Quanto dobbiamo fare sti convenevoli della calza della Befana? Va abbastanza bene così, perché dobbiamo arrivare alla pubblicità sull'amaro, dell'amaro, perché quindi se tu parli di tanti dolci che ti riempiono lo stomaco e che ti fanno venire la nausea, dopo tutta una buffata dopo un bell'amaro, un bambino di 3 anni cosa, cioè, si beve un bel amaro, un bel amaro bello forte, tipo un nocino da 60 gradi fatto dal nonno in cantina, pieno di botulino, pieno di botulino. Sì. L'amaro può essere pieno di botulino. Nocino, no, perché c'è l'alcol. Il nocino però a te, secondo me, fa venire il cosa? Ti si ingrippa tutto il corpo. Perché? Perché tu sei allergico alle nuove. Ero. Sono rimasto allergico alle banane. Vedi un e po'. Il bananino... Quale? Non viene allora. Quale bananino? Se bevi il bananino, il nocino... Ma si fa il bananino? Può darsi. Dovevamo raggiungere i nostri amici. Senti, il loro barcone con gli strumenti era in panne. Il concerto era a rischio. A rischio. Allora. Drago, che cos'è questo? Non si capisce niente. È un film. È il nuovo film di Steven Seagal. No, in realtà... Il barcone in mezzo al mare con i musicisti. Musicisti col pianoforte. In realtà questo è la pubblicità di un famoso amaro. Famosissimo amaro. Che era partito anni fa abbastanza bene. Siamo con i veterinari che salvavano i puledri che erano caduti giù nella ripa. E poi c'era anche la morale della storia, perché diceva, ho salvato questo puledro, l'allevatore era contento, mi ha offerto un amaro, e allora poi, io già la soddisfazione puledro, che ho però, facendo il lavoro è questa, certo, qui. Certo, però dopo gente, il puledro già hanno cominciato a fare confusione, perché sono passati dal puledro all'antico vaso. Con un aereo. Il maltempo si avvicinava. Vedi? Dovevo raggiungere i miei amici prima che il vento diventasse troppo forte. Sono archeologi questi, no? Sì. Le nostre ricerche in mare erano durate mesi. Barcone. Ora quell'antico vaso andava portato in salvo. L'antico vaso, il barcone non c'era ancora. Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta. Ce l'avevamo fatta. Grazie all'amaro ce l'hanno fatta, capito? Con un quadrimotore. Con l'aereo hanno trovato l'antico vaso ed era salvo. L'antico, dice a un certo punto, l'antico vaso era salvo. Era salvo, quindi siamo passati da l'antico vaso da gente, a questa. Diciamo, dagli agricoltori, gli allevatori, il gusto vero della gente. Ma che gli agricoltori? Il claim veterinari, non agricoltori. Vabbè, però, puledro una vita, è allora, una vita, diciamo, rurale, no? Vera, il gusto vero rurale della vita. E anche l'antico vaso, in qualche modo. Ma no, dai, già siamo a psichedelia. Ma no, psichedelia, perché poi dall'antico vaso siamo passati a. Dovevamo raggiungere i nostri amici. Sempre sti amici, no? Il loro barcone con gli strumenti era in panne. In panne. Il concerto era a rischio. Ecco, il concetto è che appunto ci sono questi musicisti su un barcone che invece i copywriter dell'agenzia assicurano essere una motonave. Che motonave? Una chiatta. È una chiatta senza motore. Alla deriva, sì. Con su dei musicisti jazzisti, un po' fighetti, tutti vestiti fighetti. Con gli strumenti tutti belli. Che arrivano dalla Tunisia col barcone dei disperati. Sì. Ci sono quelli vestiti bene, che sono quelli lì, e quelli vestiti che non vengono messi nella pubblicità. Allora, i nostri, diciamo, eroi dell'amaro cosa fanno? Arrivano con un'altra barca che funziona. Che funziona. Trainano questi musicisti e li portano finalmente al concerto, che non so se è su un'isola o su un'altra nave, adesso non ricordo. Però il concetto è che il concerto era salvo. E così come l'antico vaso era salvo. E come il puledro anche. Che anche il puledro era salvo. Però poi anche il puledro, purtroppo, come succede anche ai cavalli, diciamo a tutti gli esseri viventi, anche alle piante, alla fine anche il puledro è morto. E ora, bambini, ricreazione! Ciao, Iori! Ciao Alberto, allora quando partiamo per andare a fare questa settimana bianca, che ci tengo che sono povero, non ho mai visto la neve. Allora lo so che sei povero, è per quello che vieni a spese dei miei genitori. Bello. Noi, tu sei invitato e vieni in montagna con noi. Bello, eh? E tutta la settimana insieme io e te, facciamo avanti e indietro tutto il giorno, la sera, la allora, mattina. No, non proprio così, la mattina sì, la mattina e la sera, perché durante il giorno io scio, perché tu non sai sciare, no? Tu, sciare tu... A Napoli non è che... Ma scusi, che c'entra? Mi posso fare i tuffi? Ma se andiamo in montagna a sciare con lo ski lift, cosa c'entra i tuffi? Ho capito, mi imparerai a stare sullo ski lift pure a me. Ma che imparare? Non c'è mica te... Io so già sciare, no? Non posso mica perdere il tempo. Io vado su e giù, Vado su fino al top della montagna, scendo giù, faccio la pista nera, la pista rossa, gialla, verde, bianca e vengo giù. Bellissima! Eh sì, ma poi quando vengo giù torno su, no? Prendo ancora skirips, e giù via, funi via, e su ancora, e giù, e su, e giù, tutto il giorno così. E io che faccio, Alberto? Vabbè, tu stai in baita, no? In baita? E che sto a fare in baita? Stai in baita? In baita c'è, compreso, nell'offerta dei miei genitori, all inclusive, c'è il panino e ho fetta di torta. E cioccolata calda. Mi sembra una cosa... No? E io scio. Ma io voglio sciare, Alberto. Che cosa vengo a fare per mangiare il panino? Me lo mangio a casa il panino. Ma intanto lì il panino lo mangio a sbafo. Anche a casa io mangio a sbafo, Alberto. Vabbè, a sbafo a casa tua, però non a casa mia. Allora, poi, tu non sai sciare. Primo, imparare non c'è tempo. Li sci, perché se non li hai... Ancora? E come ancora? Senza sci non è che una volta o due... Avevamo detto che li compravi tu gli sci! No, avevamo detto cosa? Qui infatti non hai capito, i miei genitori offrono la settimana bianca e prendi quello che c'è, quello che ti dona, che ti arriva dal cielo, lo prendi, ringrazi e via. Non è che devi stare lì a... Avevate detto che... Ma chi? Cosa vuoi comprare gli sci? Che ora che li compriamo è già passata la settimana bianca e cosa te ne fai? Lasciare sul vulcano? Sulla lava? Ma quale lava, Alberto? Ma cosa stai dicendo? Uè, allora... Oh, Ioris, mettiamo il punto, eh? Vuoi venire o non vuoi venire la settimana bianca? Tutto spesato. Sì, io voglio venire, ma prima devo parlare a casa. Come a casa? Devo parlare a casa prima, Alberto. Ah, perché può darsi che voi fate la riunione casalinga, no? Perché c'è questo noi, gli offro una settimana bianca. Allora... attenzione, perché magari c'è sotto qualcosa. Bravo. Perché voi siete abituati... No, perché noi di solito siamo sempre accompagnati. Quando va mio fratello va mia sorella, quando va mio fratello l'altro va l'altro di mio fratello, quando vado io deve venire o mia sorella o mio fratello. Per forza. Per forza. Per forza. Per forza, Alberto. Allora, ascolta un attimo, i miei genitori sono comunisti, sono solidali, però hanno anche noi il loro budget, e il loro budget è 4 più 1, cioè loro due, io, mio fratello, più il bambino poverissimo. O tu o tuo fratello, quindi se viene tuo fratello non vieni tu. No. Ci siamo spiegati, il budget è quello lì, non si può sforare il budget, no? No, allora possiamo fare così, guarda, andiamo. Io, mio fratello e tuo fratello. E come... E beh, io? E tu stai a casa, Alberto, tanto io... Col telefonino ti posso fare le fotografie, ti posso fare i video, e tutto li guardi, e poi mi fai 10 euro di ricarica dentro. Eh sì, perché qui è la solita storia, il telefonino, che è mio, che ce l'hai ancora tu, tu mi fai le foto. Eh certo, ma noi siamo nella società, Alberto. E ti faccio la ricarica. Tu mi fai la ricarica, io ti faccio le fotografie con me, mio fratello, tuo fratello che... pure sembra simpatico, quindi ci divertiremo sicuramente. Mi dai pure 20 euro e io ti faccio pure il regalino della montagna. Ma quali 20 euro? Quale regalino? Eh sì, scusi, come... magari mi compri una roba di quella che piace a voi. Il pastore con le pecore, tutto lucido di Ceravaca. Allora, qui tu continui a parlare di soldi. Intanto io, l'altra volta, ho dato 50 euro per quelle sigarette e per tuo fratello. Io non ho visto né un euro nelle sigarette. E no, vorrei almeno saperlo, visto che siamo una società. C'ho io la sigaretta, Alberto! Tu non fumi! Eh già, io non fumo. È mio. No, è mio. L'ho visto prima io. E io l'ho visto prima del tuo prima. E io prima di prima del tuo prima. E io l'ho visto che non esistevi ancora. E io è la prima cosa che ho mai visto. E io lo vedo ora. E io ti pesto. Facciamo a turno. No, facciamo a botte. Facciamo io di giorno e tu di notte. Facciamo io estate e tu inverno. Facciamo io nel cielo e tu all'inferno. Facciamo a chi fa prima. Facciamo a chi fa rima. Ce lo giochiamo a correre. Ce lo giochiamo a carte. Ce lo giochiamo al tiro della corda. Che cos'è che era mio? E chi si ricorda? Beh, è finita anche oggi, è finita. Dai, mercoledì, ce l'abbiamo fatta. Domani è giovedì. Fatica. Poi arriva la Befana. Oh. E poi tu muori. Ma non è vero, ma hanno detto che muori. Spargere queste false notizie, sto benissimo, ok? Ah sì, ah, non si direbbe. Chiedo asilo, @radio24.it oppure Facebook. Facebook cosa? Facebook.it. Chiedo asilo, ma no, cosa non si dice? Non so, io non lo uso. / Parche per te cos'è? Parche per te.